Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Well, actually, I have been very consistent over the course of my entire life. I have always fought for the same values and principles. Ci sono due novità, devo dire quasi certe, dopo il dibattito democratico di Las Vegas dell'altra sera. Ne abbiamo già parlato in parte ieri. La prima è che Hillary Clinton, come vi ho detto, è l'unico vero candidato per la nomination. La seconda è che a questo punto Joe Biden, dopo una performance quasi perfetta di Hillary e soprattutto dopo aver visto che gli altri non valgono granché, non entrerà nella battaglia elettorale. Ecco, attenzione, queste sono ovviamente delle previsioni. Chiediamoci perché ha vinto Hillary Clinton. E qui, devo dire, ieri ci sono state una gran quantità di reazioni. Ron Furnan, per esempio, giornalista del National Journal, sentiamolo. Yes, you know what really shocked me was the difference between that and one of the best press conferences I ever saw Hillary Clinton give in 1990, Bill Clinton. Hillary Clinton ha vinto perché è una grande oratrice, ha vinto perché Sanders invece non lo è, ha vinto perché il dibattito è stato incentrato sulle politiche liberali, non sullo scandalo delle email o sul suo carattere. Ryan Litza del New Yorker, uno dei più raffinati interpreti della politica americana, dice che, Hillary ha vinto, certo ha fatto bene, ma solo perché gli altri non sono all'altezza del ruolo che cercano di svolgere. Clinton ha vinto, dice, perché i suoi avversari sono terribili, forse avrebbe anche detto sono dei dogs, come si dice in America. C'è stato però anche un messaggio abbastanza chiaro, come sappiamo, del presidente Barack Obama, un messaggio interessante perché non solo, cerca di incoraggiare tutti all'unità e dunque in qualche modo sta dicendo a Biden di non presentarsi, ma perché dice forse potremmo anche vincere qualcosa in Congresso. Ecco, vorrei focalizzare un attimo l'attenzione su questo punto perché i democratici cercheranno di dare del filo da torcere ai repubblicani. Perché? Perché al Senato, fra i 34 concorrenti, fra i 34 senatori che dovranno o ritirarsi o ripresentarsi agli elettori, ci sono molti più senatori repubblicani in ballo che non democratici. I repubblicani sono 24, i democratici sono soltanto 10, e per riconquistare la maggioranza al Senato i democratici avrebbero bisogno soltanto di 5 seggi, cosa possibilissima, anche perché alcuni senatori repubblicani certissimi, come per esempio Marco Rubio, che è tra l'altro il candidato repubblicano per la presidenza, hanno annunciato che si ritireranno nel 2016, e che la battaglia al Senato diventa chiave lo dimostra il fatto che i fratelli Koch, forti sostenitori repubblicani, abbiano deciso per il momento di concentrarsi solo sul Senato. Nel 2012, ve lo ricordo, hanno dato un contributo decisivo per la vittoria al Senato, per consentire ai repubblicani di tenere quella maggioranza, e poi per la Casa Bianca si vedrà. Il grande premio ovviamente resta quello della Casa Bianca, e a questo punto Hillary Clinton, secondo me, al di là dei risultati negativi, perché sappiamo che il suo concorrente più diretto, Bernie Sanders, senatore del Vermont, è in testa sia in Iowa che in New Hampshire, dunque al di là del fatto che possa non far bene in quei due stati, farà sicuramente bene negli altri stati. I numeri e i soldi, i quattrini per finanziare questa campagna sono dalla sua parte, ma dopo il dibattito l'altra sera io credo che cambieranno le cose anche in New Hampshire e in Iowa. Ma passiamo ad altro, passiamo a delle notizie economiche interessanti. But I expect that inflation will return and the influence of lower energy prices and inflation below our goal. Ecco, dal punto di vista economico ci sono varie cose che sono capitate ieri. Da una parte abbiamo avuto il Beige Book, c'è stata una fotografia dell'economia americana che continua ad espandersi in modo relativamente modesto, e il fatto che il settore manifatturiero è generalmente debole anche perché c'è un dollaro forte che tra l'altro ha pesato sul turismo, il settore bancario invece è andato piuttosto bene, il mercato del lavoro si è ulteriormente rafforzato, ma ci sono ancora dei margini per poter migliorare. Ecco, il messaggio che si deduce da questa lettura è che forse la Fed deciderà di rimandare ancora una volta, e chissà per quanto, la stretta monetaria. Quindi questo il contesto d'insieme da un punto di vista finanziario. Ma c'è stata un'altra notizia che ha colpito ieri invece il mercato, notizia molto interessante, sentiamo. Take a look at this. The Dow Jones Industrial Average hammered because Walmart looks like it is hammered. The world's biggest retailer saying that, you know, we don't see any light at the end of this tunnel for a while, a good few years at least. That stock today alone fell 10%. It has rarely lost so much in a single day. Some say back to 20 years. Walmart, il colosso delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, è il più grande venditore, il più grande, tra l'altro, employer, datore di lavoro negli Stati Uniti, ha perso oltre il 9% in borsa, è crollato, pensate, al minimo in 3 anni e mezzo, ha bruciato 20 miliardi di dollari di capitalizzazione, ecco, perdendo solo il 9%. Di fatto ha bruciato l'equivalente di quella che per noi sarebbe una manovra non da poco per rimettere in piedi le nostre finanze. Perché c'è stata questa caduta del titolo di Walmart? Perché le stime di crescita per i prossimi 2 anni sono state ridimensionate, questo non era atteso, ci sono previsioni di utili più o meno agli stessi livelli di quest'anno per il 2016, ma l'idea è che per il 2017 gli utili potrebbero scendere tra il 6 e il 12%, mentre le vendite nei prossimi 3 anni potrebbero crescere del 3-4%. Ecco, questi sono dati inferiori alle medie storiche di Walmart e dunque grande preoccupazione del mercato, che reagisce, come sappiamo, in modo istantaneo a notizie di questo genere. Altra notizia, Bank of America. Sentiamo Brian Moynihan, il Chief Executive Officer della grande banca americana. On behalf of all of us here at Bank of America, I want to welcome you to this year's gala and celebration. We're so proud to host this event and proud of our long-standing partnership with CHCI. Abbiamo avuto risultati solidi, dice, stiamo continuando nella nostra strategia di lungo termine per riorganizzarci. La performance del terzo trimestre riflette gli sforzi per migliorare il leverage operativo e nello stesso tempo stiamo continuando, dice, con degli investimenti. Ecco, nel terzo trimestre la notizia positiva è che Bank of America ha avuto dei risultati che sono andati ben al di sopra delle previsioni degli analisti. Pensate che ha avuto dei profitti netti per il trimestre di 4,5 miliardi di dollari, pari a 37 centesimi per azione, quando gli analisti si aspettavano 33 centesimi per azione. Ecco, perché ho voluto fare questo connubio politica-economia? Beh, perché le due cose sono strettamente legate. Hillary Clinton si è spostata leggermente a sinistra perché l'umore degli americani resta un umore non positivo, c'è la percezione di debolezza, come ci ha detto il Beige Book, c'è la percezione che i consumatori tirano fino a un certo punto, che aziende come Walmart forse non stanno andando bene. Ecco, se però questa cosa dovesse cambiare da qui a un anno, ecco che per Hillary Clinton ci sarebbero forse anche dei problemi dal punto di vista della strategia della comunicazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di corsa elettorale, del fatto che Hillary si sta così buttando in una corsa solitaria, e dunque di Bruce Springsteen, Born to Run. Che è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.